A bordo campo di Dario Ricci. Non solo sorrisi e pompon, sì, oggi a bordo campo parliamo delle cheerleaders, perché ci sono venuti sotto mano degli articoli arrivati freschi freschi dagli States che ci raccontano di parecchie proteste in quelle che sono le protagoniste dello show business americano, almeno a bordo campo, e che quindi qua trovano ovviamente cittadinanza. E allora di questo, del cheerleading e delle condizioni delle cheerleaders al di qua, al di là dell'oceano, vogliamo oggi parlare qui a bordo campo, partendo da quella che è la situazione negli Stati Uniti, nel football americano, dove le cheerleaders ridono sempre di meno. Sentite un po'. Le cheerleader della NFL, la lega di football americano, sono in rivolta. 5 cheerleader dei Buffalo Bills fanno causa alla squadra, accusandola di violazione delle norme sui salari, ma soprattutto di condizioni lavorative umilianti. Le ragazze denunciano il test settimanale alle quali vengono sottoposte per valutare, tramite saltelli a stella, le parti del corpo che si muovono in eccesso a causa di presunto grasso. Un esame attento di ogni parte del corpo in evidenza con la divisa e che include anche istruzioni per come lavare le parti intime. La causa delle cheerleader dei Buffalo Bills si aggiunge a quelle già avanzate dalle cheerleader dei Raiders e dei Cincinnati Bengals, che accusano le rispettive squadre di essere sottopagate. Allora, questa è la situazione delle cheerleaders americane, insomma un mondo molto meno fatato di quello che possiamo immaginarci guardandole a bordo campo, e da questa situazione ci è venuta la curiosità di sapere invece come sono, come vanno le cose per le cheerleaders qui in Italia. E allora, nostra prima ospite, Valentina Piddiu, segretario generale della Federazione Italiana di Cheerleading, ma anche coach, quindi allenatrice, a sua volta cheerleader. Benvenuta Valentina a bordo campo. Grazie, buonasera a tutti. Allora Valentina, entriamo subito nel mezzo dell'argomento. Che effetto ti fanno queste rimostranze che arrivano dalle cheerleaders americane? Te l'aspettavi? Sì, da un lato me l'aspettavo, perché comunque il mondo del cheerleading in America, diciamo che è un mondo piuttosto sviluppato, quindi è anche normale che ci siano questi screzi e insomma succede. E certo, queste difficoltà in tutti i settori di lavoro. Ecco, però forse è un mondo anche improntato da un forte machismo, maschilismo, no? Sì, assolutamente sì, anche perché quando si parla di cheerleader si pensa subito alla ragazza pom-pom che si esibisce a bordo campo in abiti succinti, diciamo così, quando invece il cheerleading è proprio uno sport a sé stante. Ecco, quello che vediamo magari nei campi da football è giusto una piccola parte di intrattenimento che non ha niente a che fare con il vero sport del cheerleading inteso come sport a sé stante. Ecco. Ecco, questo è un punto molto importante, cioè il cheerleading è diverso dalle cheerleaders, no? Per provare a capirci, nel senso che se quelle che vediamo nello sport americano sono spesso ballerine professioniste, sì, sono più che altro ballerine professioniste, esatto, che ballano con dei pompom in mano, ecco, e quindi vengono associate alla cheerleader, quando invece la cheerleader vera e propria è proprio un atleta, ecco, che fa allenamenti piuttosto duri e faticosi. Certo, diciamo che è una disciplina che in Italia, o al di fuori dal contesto americano, diciamo così, ha proprio i tratti di quello che potrebbe essere la ginnastica ritmica, insomma, il pompon è uno strumento. Sì, acrobatica, sì, esatto. Quindi ecco, c'è proprio una serie di competizioni, una giuria che vi valuta, no? C'è anche tutto un versante maschile del cheerleading, no? Sì, assolutamente sì, anche in Italia appunto è uno sport che sta prendendo piuttosto piede, abbiamo varie squadre proprio miste con atleti sia di sesso maschile che di sesso femminile. Quindi insomma ecco, uno sport vero e proprio che a questo livello ben poco a che fare col professionismo e l'intrattenimento, no? Così come invece dall'altra parte dell'oceano. Esatto. Bene, Valentina, allora intanto grazie per averci chiarito questi aspetti importanti. So che sei impegnata in un altrettanto importante allenamento in vista di una competizione, allora ti lasciamo al pompon, sì, ma anche e soprattutto agli esercizi. Grazie, grazie. Crepi il lupo allora. In bocca al lupo anche a te e al tuo team per questa competizione in arrivo. E di cheerleading in Italia continuiamo a parlare col presidente della Federazione Italiana Cheerleading, Riccardo Cavalieri. Benvenuto presidente. Buonasera a tutti e grazie Dario. Ecco, presidente Cavalieri, sentivamo dalla testimonianza di Valentina Peddiu, c'è tutta la differenza del mondo tra le cheerleaders che tanto ammiriamo negli Stati Uniti e quello che invece è un vero e proprio sport che tra l'altro ambisce a entrare anche nel panorama olimpico, se non sbaglio, vero? Esatto, perché proprio nel 2013 il Sport Accord ha riconosciuto a tutti gli effetti il cheerleading come sport, insieme alla Formula 1. Tra l'altro ha riconosciuto diversi sport proprio nel 2013 e tra questi c'era sia il cheerleading che la Formula 1. Quindi per noi è grande gioia questo, perché vuol dire che anche noi avremo la possibilità nel prossimo futuro di arrivare alle Olimpiadi. Ecco, questo è per noi una grande gioia, ma soprattutto per sfatare questo mito delle ragazze pompon. Ecco, non a caso il presidente della federazione è lei, che è un uomo, insomma, no? Cioè, per dire. Esatto. Ma diciamo che i rappresentanti, io conosco presidenti di varie nazioni e sono quasi tutti uomini, tra l'altro. Beh, insomma, fate spazio pure alle femminucce, però, perché se no poi vi accusano di un certo maschilismo. No, ma diciamo che la parte dirigenziale la fanno più gli uomini in questo settore e invece magari la parte più coach, più verso magari la parte femminile. Ecco, tra l'altro le chiedo di che numeri stiamo parlando, quanti praticanti ha il cheerleading in Italia e quanti sono uomini e quante donne? Due parole sulla nascita della federazione, che è molto giovane. Ecco, noi abbiamo iniziato le nostre attività nel 2009 e attualmente abbiamo oltre 500 team sparsi un po' in tutta Italia, in circa 130 città abbiamo le nostre squadre. Sono i primi progetti scolastici. Sono nati i primi progetti universitari. Quando dico progetti universitari e scolastici vuol dire proprio team all'interno di scuole e università. Quindi per noi è una grande crescita questa. Il cheerleading attualmente è uno sport che sta prendendo sempre di più. Abbiamo sempre più richieste da parte di mamme, da parte di ragazze che magari vogliono cambiare sport, che arrivano dalla danza, dalla ginnastica artistica, dal twirling e via dicendo. E anche da tantissime sedi delle scuole che ci chiamano per inserire il progetto cheerleading. Le chiedo ancora però, c'è anche la necessità di risolvere da subito quella che è appunto la contraddizione tra l'immagine della cheerleaders, l'immagine tradizionale e quello che in realtà è lo sport, no? Che è vero e proprio. Da questo punto di vista come lavorate a livello federale? Perché bisogna spiegarlo, io per esempio l'ho imparato qui a bordo campo facendo questa piccola inchiesta, insomma. Diciamo che la cheerleader vista come ragazza pom-pom è una parte del nostro sport, quindi è quella parte di spettacolo che poi ognuno può fare a seconda delle esigenze della propria squadra. E quindi per esempio per le squadre dell'NBA vogliono le super ragazze, super immagine, perché fa parte tutto di un loro mondo che non è ancora arrivato, e quindi ci vogliono determinati parametri. Ecco perché la differenza dello sport è che comunque lo possono fare tutti, come fare danza, come fare basket e via dicendo. Chi vuole praticarlo va nell'associazione sportiva più vicina e scrive al corso di cheerleading. Quindi presidente, anche se si è grassi o grasse o non si è esteticamente perfetti, si ha il naso storto, certo, si può fare il cheerleading. Questo direi che certo, il cheerleading è per tutti. Si può essere cheerleader sia uomini che donne dai 5 anni in su senza nessun problema. Poi se si parla di progetti a livello di show, a livello di grandi eventi sportivi o magari grandi associazioni sportive, dove dicono io voglio la squadra, voglio questo, voglio quell'altro, allora creano un progetto ad hoc dove possono scegliere le modelle, le ballerine, quello che vogliono, con una coach che poi le forma, allora possono nascere quei progetti chiamati ragazze pom-pom. Ecco, questa è un po' la differenza. Invece le nostre squadre sono squadre di cheerleading, quindi possiamo avere all'interno della squadra qualsiasi tipo di persona, nessun problema, ecco. E allora, presidente Riccardo Cavalieri, numero uno della Federazione Italiana Cheerleading, direi in alto e pompon, in bocca al lupo per il cheerleading e per le prossime sfide. E, insomma, non solo di NFL e di NBA vive il cheerleading, diciamo così, no? Esatto. E, tra l'altro, la nostra collaborazione proprio anche in Italia con la Federazione di Football Americano, la FIDA, stretta da 4 anni ad oggi. Abbiamo più di 40 team che fanno parte e fanno supporto alle squadre di football americano in Italia, quindi per noi è un grande onore questo. E allora, lunga vita al cheerleading, ma quello vero però, quello che abbiamo raccontato oggi a bordo campo. Grazie presidente Cavalieri di essere stato nostro ospite. Grazie a voi e grazie a bordo campo ovviamente. A bordo campo. Un calcio color arcobaleno, l'arcobaleno all'ombra del cuoio. Questo è il titolo dell'inchiesta recentemente pubblicata da 442 Italia, il mensile, lo sapete, per appassionati del calcio in tutte le sue sfumature, che ha attirato un po' la nostra attenzione, di cui oggi vogliamo parlare qui a bordo campo. Perché? Perché questo arcobaleno all'ombra del cuoio? Perché di fatto questa inchiesta pubblicata da 442 analizza il fenomeno dell'outing di giocatori e giocatrici omosessuali nel mondo del pallone, tema quanto mai presente, non apertamente in molti casi e soprattutto nel calcio italiano. E allora abbiamo pensato di parlarne oggi qui a bordo campo con quello che è stato l'autore di questa inchiesta su 442, l'amico e collega Francesco Caremani. Benvenuto Francesco a bordo campo. Grazie Dario, grazie a voi. Allora Francesco, spiegaci un po' come è nata l'idea di fare questa inchiesta, ragionamento su un fenomeno presente, ma in molti casi nascosto nel mondo del pallone, soprattutto italiano, direi. Sì, l'idea è venuta, io avevo questo materiale da tanto tempo, cioè in pratica la lista dei calciatori e delle calciatrici che a livello internazionale avevano fatto coming out, ma non solo, che nei propri paesi, nei rispettivi paesi di appartenenza si battono contro l'omofobia. E mi sembrava un argomento particolarmente interessante perché di contro in Italia l'omosessualità nel calcio è l'elefante nel salotto, cioè scema, nessuno lo vede o fanno finta di non vederlo, e mi sembrava un argomento particolarmente interessante. Oltretutto Cesare Prandelli ha preso posizione, direi negli ultimi 2 anni se ne è parlato moltissimo, però si continua a far finta che nel calcio italiano l'omosessualità non esista, e verrebbe da dire anche solo per la legge dei grandi numeri. C'erano delle storie che mi hanno colpito particolarmente. Beh, prima di arrivare alle storie, Francesco, ti chiedo, tu che hai studiato in modo particolare questo aspetto del nostro calcio, perché il nostro calcio è a dir poco più reticente di altri universi pallonari che invece convivono in modo molto più naturale col tema omosessualità? Io credo che sia semplicemente una questione culturale. Il motivo per cui ho scritto il pezzo è proprio per cercare di scardinare questo meccanismo negativo culturale, che non si voglia affrontare l'argomento, che non si voglia parlare di questo. Mi piacerebbe che fossero, come dire, gli amici omosessuali a parlarne e a scriverne. In questo caso è stato un eterosessuale, però credo e credevo e ci crederò fino in fondo che sia un argomento da affrontare. Cioè, un atleta ai massimi livelli non può nascondere una cosa del genere per rendere al massimo, deve essere libero di poterla vivere, non tanto di dirlo, cioè nel senso, anche perché poi alla fine questa cosa del doverlo dire, del doversi dichiarare, del dover fare coming out, ma di vivere con estrema serenità la propria sessualità. Sappiamo benissimo cosa sono i nostri stadi. Il percorso culturale è lunghissimo. Eh sì, a dir poco Francesco. Eppure a livello internazionale è dal 1980, pensate, che esiste l'International Gay and Lesbian Football Association, no? Quindi uno statuto internazionale di fatto e un organismo di riferimento già c'è. Beh sì, però vedi, anche questo in qualche modo rischia di essere un ghetto. Loro organizzano manifestazioni internazionali, tornei di calcio, e lo fanno naturalmente con squadre che sono composte quasi esclusivamente da giocatori o giocatrici omosessuali, anzi la sigla corretta è LGBT, però di fatto rischia questo di essere un ghetto sportivo. naturalmente è un modo anche, come dire, per autoaffermarsi, per dire che anche loro possono giocare a pallone, perché possono partecipare a tornei internazionali, vincere e giocare quello sport che in Italia è considerato particolarmente maschista, quindi quasi esclusivamente per soli uomini. Sappiamo benissimo anche come è considerato in Italia il calcio femminile, a differenza anche qui rispetto ad altri paesi, soprattutto nel nord Europa. Credo che sia molto importante comunque questa azione all'interno del movimento LGBT, di fatto però credo che appunto la sensibilizzazione contro l'omofobia e il fatto che possano giocare, come dire, tutti insieme omo e eterosessuali, perché bravi, mi verrebbe da dire, no? Ah, certo, di talento, l'unico giudice però, deve essere il campo. Certo, il calcio è quello, però che abbiano la possibilità appunto di farlo sullo stesso campo, ancora sono campi distanti, ancora sono campi separati. Ecco, abbiamo visto, Francesco, recentemente il coming out nell'NBA di un giocatore come Jason Collins, che pure dopo il coming out ha trovato comunque un breve contratto quest'anno con i Brooklyn Nets. Nella NFL i Los Angeles Rams, che hanno scelto il gay dichiarato Michael Sam. Ecco, c'è una dimensione tutta calcistica di questa chiusura, cioè nel senso, secondo te che hai studiato il tema e l'hai approfondito, il calcio è quasi per il suo proprio DNA più chiuso di altri sport, oppure no? Sicuramente sì, e non nasce solo, come dire, nel cameratismo dello spogliatoio, questa differenza di atteggiamento culturale, nasce poi anche sugli spalti. Cioè, sappiamo benissimo che la violenza non è solo, come dire, degli ultra del calcio, ma altre volte è sfociata anche, purtroppo, sconfinata in altri sport, però generalmente gli altri sport hanno un tifo che è completamente differente da quello del calcio. Quindi credo che proprio sia l'ambiente sportivo veramente reagisce in maniera completamente diversa e direi in maniera corretta rispetto purtroppo al mondo del calcio. Sì, quindi insomma, ecco, diciamo che c'è un gene che va modificato, no? Per far sì che il calcio tout court, al di là del problema specifico del football nostrano, possa aprirsi ancora di più al riconoscimento che differenze di genere e di sesso non devono esserci. Sicuramente, è il motivo per cui ho scritto questa inchiesta. Non è per fare una lista può apparire anche brutta. Mi è stato detto su Twitter, cioè, o meglio, mi è stato chiesto perché la lista. Ho spiegato che non era segretata, che era pubblica e che questi calciatori e calciatrici, anzi, si battono proprio contro l'omofobia e per loro è un orgoglio aver fatto coming out. Non è così semplice, però io l'ho scritto proprio per questo, per, oddio, modificare il gene, mi sembrerebbe troppo presuntuoso da parte mia, per lanciare intanto un tasso nello stagno e vedere la reazione, vedere se si riesce a parlare di questa cosa appunto senza scadere nella volgarità, nella battuta cattiva, e si riesce a guardarsi negli occhi e confrontarsi come uomini al di là delle differenze. Ti chiedo, abbiamo un po' analizzato la situazione in Italia, il confronto con gli altri sport, quali sono invece i paesi all'avanguardia? Dicevamo i paesi del nord Europa e poi? I paesi scandinavi, la Germania, un po' gli Stati Uniti, però pochi altri, sinceramente, cioè la maggior parte appunto di mi dimenticavo, scusami, Australia e Nuova Zelanda, cioè devo dire i paesi scandinavi e i paesi anglosassoni, non propriamente però l'Inghilterra in questo caso. Ecco, in qualche modo invece nell'Inghilterra sopravvive una certa idea del machismo sportivo. Assolutamente sì, stavo accennando prima la storia di Justin Fasciano, per certi aspetti paradigmatica. Lui era un giocatore di colore famoso, il primo a fare coming out, è stato osteggiato dai compagni di squadra, abbandonato dal fratello, osteggiato anche da Brian Clough, che ha una letteratura, forse ne meriterebbe anche un'altra da questo punto di vista, e alla fine si è impiccato da solo in un garage. A questa storia è collegata a quella del figlio di Eason, ex giocatore di Liverpool e Fiorentina, che invece gioca in Svezia nelle serie minori, e anche lui è un LGBT dichiarato, un omosessuale dichiarato. Purtroppo questo gli crea problemi anche nella civilissima Svezia, perché poi aver fatto coming out da parte di questi calciatori, di queste calciatrici, non è che la loro vita è cambiata dall'oggi al domani, non è che sono riusciti a sfondare il muro dell'omofobia. L'hanno fatto, hanno avuto coraggio, chiaramente lo fanno in paesi con una cultura di tolleranza maggiore rispetto alla nostra, però i problemi ci sono enormi anche lì. Il figlio di Isen ha continuato ad avere problemi non con i suoi compagni di squadra, non con i suoi tifosi, ma purtroppo con i giocatori delle altre squadre e con i cosiddetti tifosi delle altre squadre, che lo offendono dall'inizio alla fine della partita. Quindi ecco, parlarne significa anche capire quali sono e continuano ad essere i problemi di chi, come il figlio di Isen, decide: no, io non voglio fare il torneo LGBT, io da omosessuale voglio stare in una squadra di miei pari e giocare un campionato di miei pari. Però le difficoltà continuano ad esserci. E allora magari riusciamo a fare qualche passo avanti anche con articoli come questo di Francesco Caremani, con cui abbiamo fatto questo viaggio nel mondo dello sport arcobaleno, ma soprattutto nella nostra cultura sportiva, provando a individuare un percorso diverso e più pieno. Allora Francesco, grazie per essere stato nostro ospite, grazie soprattutto per questa bella inchiesta su 442 Italia. Grazie a te Dario, grazie a voi Radio 24. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Fabio Cantadori in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci dal nostro sito radio24.it, da cui potete anche scaricare il podcast della puntata e scriverci alla mail abordocampo@radio24.it. Ora spazio a tutti i convocati weekend. A Bordo Campo torna come sempre domenica prossima alle 16.30, ma cominceremo a parlare soprattutto del mondiale di calcio brasiliano e in replica il sabato mattina alle 6.15. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.